Domenica 13 maggio, festa della mamma, torna l'appuntamento con l'Azalea della Ricerca, il fiore simbolo del sostegno alla ricerca sui tumori femminili. Ci saranno i 20.000 volontari impegnati in tutto il paese per distribuire appunto le piantine di azalea e anche una pubblicazione dedicata alla salute delle donne. Marilena, lei è stata così definita un po' un talento rosa della scienza. Lei è una donna che lavora per le donne. Sì, diciamo che in effetti si può dire che mi sono sempre occupata di tumori femminili, tumore all'ovario e soprattutto tumore al seno. Ed in particolare mi occupo negli ultimi anni di molecole un po' curioso, microRNA, piccolissime ma con un ruolo veramente cruciale, praticamente in tutti i tumori umani, incluso il tumore al seno. Diciamo che adesso, grazie proprio a un finanziamento startup dell'AIRC, il mio scopo attuale, il mio progetto attuale riguardo allo studio di quali di queste molecole sono più importanti del tumore al seno, capire quali sono i meccanismi che portano alla loro alterazione e soprattutto cercare di trovare il modo per intervenire, ecco, per ripristinare quell'equilibrio che una cellula tumorale persa. Questo è il mio scopo principale. E quindi ricordatevi alla festa della mamma di sostenere la ricerca, perché anche la ricerca, come le mamme, va amata e sostenuta. Esatto.